Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La raccomandazione OMS permane per quanto riguarda le persone che camminano per strada e che non hanno opportunità di stare in un capannello di gente per più di 10 minuti, un quarto d'ora, perché utilizzare mascherine per camminare per strada è tuttora fuori raccomandazione. Quello che cambia o può cambiare è la previsione di un raggruppamento di persone all'interno di strutture chiuse, quindi nei microambienti confinati. Ecco, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, come vedete la questione delle mascherine è sempre, diciamo, discussa, è sempre nel dibattito, sì, no, sono utili, devono essere obbligatorie oppure no, al di là delle ordinanze naturalmente delle varie regioni. A dirlo oggi in conferenza stampa della Protezione Civile, che sapete da sempre il bollettino quotidianamente dei dati del contagio in Italia, è Ranieri Guerra che ha parlato dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto a proposito delle indicazioni che dà l'OMS, se si cammina per strada e non si ha l'occasione di finire in capannelli di persone, non si ritiene che ci sia l'indicazione di necessità di portare la mascherina. Questo l'ha detto Ranieri Guerra dell'OMS, sempre fermo restando che alcune regioni invece hanno dato l'ordinanza di mascherine obbligatorie, però evidentemente continua a non esserci univocità, diciamo, sul considerare la mascherina per strada un presidio assolutamente necessario. Ci occuperemo però di molte altre cose, non solo di mascherine. Naturalmente torneremo sulla polemica relativa al MES, il Fondo Salva Stati. Sapete che si sono create delle, come dire, delle alleanze alternative, nel senso che due antichi avversari come Berlusconi e Prodi sono tutti e due d'accordo sull'utilizzare questo fondo salva stati, che adesso è stato un po' modificato in sede di Eurogruppo, mentre si sono riavvicinati Movimento 5 Stelle e Lega sul fatto di essere assolutamente contrari. Conte aveva detto nei giorni scorsi assolutamente noi non ne vogliamo sapere del MES. Conte, naturalmente Presidente del Consiglio che conduce la trattativa in sede di Unione Europea, in serata è sembrato un pochino più aperto su questa ipotesi. Ce ne occuperemo, così come ci occuperemo di questa svolta della Lombardia, che ha chiesto al governo. La Lombardia, sapete, è la regione più colpita, quella che ha anche le misure più stringenti, ha chiesto al governo di poter riaprire alcune attività produttive dal 4 maggio. Per quanto riguarda le scuole, diverse nazioni in Unione Europea stanno decidendo di aprire nei prossimi giorni, a maggio, le scuole. Che cosa succede in Italia? Avremo la vice ministra Ascani qui ospite di Effetto Notte. Poi c'è una circolare del Viminale che chiede alla Guardia di Finanza, alle forze dell'ordine, di fare controlli stringenti nei negozi, nelle aziende, nei supermercati, per valutare che ci siano le misure di sicurezza. C'è poi la grande inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio e sulle case di riposo, che sapete tanti morti hanno avuto al loro interno purtroppo per il Covid-19. Beh, tantissime cose, insomma, al fuoco. 349-238-6666, ve lo ricordo, è sempre il numero per i vostri commenti tramite SMS e WhatsApp, anche se so che ormai preferite i WhatsApp. E poi pagina Facebook di Effetto Notte, sempre per i vostri commenti durante il giorno. Il Twitter è Roby con la Y, Netta Bassa Giordano. Ma partiamo con la sintesi della giornata. L'epidemia di Covid-19 in Italia, il coronavirus non molla la presa, ma cala ancora il numero dei ricoverati in terapia intensiva. La polemica sul MES e lo scontro PD Movimento 5 Stelle. Conte cambia posizione sul fondo salva stati e dice decidiamo dopo la trattativa europea. Coronavirus, le ipotesi per la fase 2, si va verso orari differenziati per uffici, industrie e aziende, e la Lombardia chiede al governo di riaprire il 4 maggio con le misure di sicurezza. E Berlino proroga il divieto di contatto, ma da lunedì riapre i negozi fino a 800 metri quadrati. Scuole in Europa, qualcuno punta a riaprire a maggio, e in Italia ha Effetto Notte la vice ministra Ascani. Inchiesta sulla RSA e sequestri della Guardia di Finanza in Regione Lombardia, 600 controlli in tutta Italia, il 17% delle strutture delle case di riposo risulta irregolare. Misure di contenimento, il Viminale invia una circolare alle prefetture per verificare in negozi, supermercati, aziende le misure di sicurezza. Stop americano ai finanziamenti dell'OMS, piovono critiche su Donald Trump che prima sottovaluta il virus, poi accusa i medici. Sport, via libera definitivo della Camera al decreto per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, e il ciclismo rimodula il suo calendario internazionale. Partiamo Partiamo quindi dai dati sul coronavirus in Italia, aggiornati come sempre dalla Protezione Civile in conferenza stampa. Sono complessivamente 100.418 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.127. E poi le vittime invece sono 21.645 dopo aver contratto il coronavirus nel nostro paese, con un aumento rispetto a ieri di 578. Ieri l'aumento era stato di 602. Dati buoni per un verso, peggiori per l'altro, nel consueto bollettino della Protezione Civile. 21.645 sono ad oggi le vittime del coronavirus in Italia, 578 più di ieri, quando l'aumento era stato di 602. Oltre 38.000 i guariti, meglio di ieri, mentre calano i pazienti in terapia intensiva. Ma ci sono ancora 105.400 malati, con un incremento di più di 1.100 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato molto più basso. Bene comunque che il rapporto tra i positivi individuati oggi e il numero di tamponi fatti sia al minimo dall'inizio dell'epidemia, 6,1%. Nella Lombardia, che punta al 4 maggio per una nuova normalità, si contano quasi 33.000 malati adesso, 558 in più di ieri. Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io credo che la regione Lombardia sia un po' il pilota, se vogliamo, di quello che accadrà anche nelle altre regioni, quindi in qualche misura debba essere estremamente cauta e valutare con estrema attenzione sia questa quantificazione di rischio, sia tutte le metodologie, tutti i protocolli che possono essere attuati per rendere questo rischio pari a zero. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Bergamo, in Valseriana, sapete, Bergamo e la Valseriana sono state così duramente colpite dal coronavirus. Adesso la situazione è migliorata soprattutto negli ospedali, ha detto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori alla Vita in diretta su Rai 1, chiarendo che i numeri dei decessi sono purtroppo il consuntivo reale dei decessi tra il 1 marzo e il 12 aprile, con un aumento della media rispetto a 10 anni precedenti di quasi 4 volte, il 370%, con 626 morti in più rispetto allo stesso periodo degli anni scorsi. Dice Gori, è facile ricondurre questo dato all'epidemia, anche se i decessi riconosciuti ufficialmente come Covid sono minori e solo chi ha avuto il tampone risulta un decesso da Covid. In realtà quindi i decessi sono molti di più, ha detto Giorgio Gori, di quelli ufficiali, e dietro ogni numero ci sono famiglie, lutti e un grande dolore che credo faremo fatica a rimarginare, ci vorrà del tempo. E mentre il mondo accelera sulle riaperture, l'Italia non ha ancora deciso quando allenterà il cosiddetto lockdown. La Lombardia, intanto, avete sentito, chiede al governo la ripresa delle attività dal 4 maggio. Ne parleremo di questo, così come ci sarà modo di approfondire il tema della scuola con la viceministra Scani e della circolare del Viminale inviata alle prefetture per controllare il livello di sicurezza in negozi, supermercati e aziende. Per affrontare la fase 2 serve un monitoraggio capillare dei casi positivi, ma i medici di famiglia non hanno a disposizione un numero sufficiente di tamponi che sono riservati ai pazienti ospedalizzati e sono costretti a seguire i pazienti sospetti Covid senza poter monitorare la guarigione o i loro contatti familiari, il che rende possibile un'ulteriore estensione importante del contagio, come spiega Alessandro Politi, segretario della Società Italiana di Medicina Generale di Milano, al microfono di Rosanna Magnano. Persino i familiari di tamponi positivi non vengono fatti, e questa secondo me è una cosa assolutamente assurda. Pazienti che sono stati molto probabilmente affetti da questa forma influenzale della SARS-CoV-2, giustamente i loro datori di lavoro richiedono una certificazione per poter riammettere il lavoratore. A questo punto il lavoratore deve rivolgersi agli uffici preposti dell'ATS, dell'ufficio di igiene, i quali ti dicono: non possiamo farti il tampone perché tu non sei stato trovato positivo una prima volta, e il povero paziente non riesce a tornare a lavorare, a produrre, a guadagnare. Noi temiamo molto la fase 2, in una fase in cui molte attività saranno riaperte, però in mancanza di un controllo epidemiologico su tutte queste persone che torneranno a una vita più o meno normale, la fase 2 rischia di essere la classica seconda ondata, può essere molto ma molto peggiore della prima. Il Comitato Tecnico Scientifico, che sapete consulente del governo, ha definito e validato i criteri e le caratteristiche dei test sierologici che dovranno essere utilizzati per la campagna nazionale, che coinvolgerà un campione di circa 150.000 persone suddivise per profilo lavorativo, genere e 6 fasce d'età. A breve sarà pubblicato un bando con indicazioni sulle tipologie. Bufera intanto sulle case di riposo. La RSA della Lombardia, la Guardia di Finanza, ha fatto sequestri di atti nella sede della Regione a Milano nell'ambito dell'inchiesta che vede al centro il Pio Albergo Trivulzio e altre RSA milanesi per la gestione di ospiti anziani e pazienti nell'emergenza Covid. Ne parleremo di questa inchiesta. Intanto spostiamoci sulla politica con il Presidente del Consiglio Conte, che media nello scontro tra Movimento 5 Stelle e PD sul MES, sul Fondo Salva Stati, e dice: valutiamo solo alla fine della trattativa con l'Unione Europea se conviene o no all'Italia, faremo una discussione trasparente e deciderà il Parlamento. Sono d'accordo con il Presidente del Consiglio Franceschini del PD, Bonafede del Movimento 5 Stelle. La lite nella maggioranza, che mette incertezza anche sul decreto aprile da 60 miliardi per famiglie e imprese, ha segnato la giornata e fatto tremare i mercati. Lo spread è volato fino a 245 punti, poi ha chiuso a 235. Piazza Affari ha bruciato 19 miliardi e ha chiuso a meno 4,78%. Male anche le borse europee, come ha detto soprattutto appunto Piazza Affari, che ha accusato la performance peggiore d'Europa, col FTSE MIB giù del 4,78%, vi dicevo, e lo spread è volato a 240 punti. Seduta negativa per le principali borse europee, piegate dalla prospettiva di una recessione mondiale frutto della pandemia coronavirus. E va male anche Wall Street, preoccupata dai pesanti dati statunitensi su produzione industriale e consumi. In Europa Milano è stata la peggiore, con il FTSE MIB che ha chiuso in calo del 4,8%. Seduta pesante anche per lo spread tra BTP e Bund, in calo a 240 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,94%. I titoli di Stato italiani sono sotto pressione, troppe le incertezze all'orizzonte per il nostro paese in caso di rinuncia all'uso del Fondo Salva Stati europeo o alla mancata approvazione degli Eurobond per fronteggiare la crisi coronavirus. In Europa è il momento della solidarietà, è quello che si aspettano i cittadini, auspica la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva. Tutti gli strumenti, dice, devono essere usati per stabilizzare l'economia e la situazione sociale. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, l'Italia è stata molto colpita dall'epidemia e il governo ha risposto in modo forte. In questo contesto, dunque, il deficit sarà all'8,3% e il debito al 155%, ma con la ripresa dell'economia nel 2021 e con la BCE che tiene i tassi bassi, stima il Fondo Monetario Internazionale, il debito è previsto in calo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sul bonus liquidità facciamo il punto. Arrivano agli italiani gli aiuti previsti un mese fa dal decreto Cura Italia. Il bonus da 600 euro, accreditato tra mercoledì e venerdì a 3 milioni e 600 mila autonomi e professionisti. Il bonus babysitter, il congedo parentale e la cassa integrazione. Quella ordinaria sta arrivando ai 4 milioni e mezzo di lavoratori coinvolti, mentre l'associazione bancaria firma accordi con le regioni per anticipare anche quella in deroga. Sale poi il pressing delle imprese, molte con ricavi azzerati e costi fissi da sostenere. Secondo Banca Italia serviranno 50 miliardi di euro di prestiti aggiuntivi entro luglio. Il decreto liquidità dell'8 aprile concede garanzie statali per crediti stimati in 400 miliardi di euro e sempre Banca Italia invita gli istituti di credito a fare presto. Le banche, assicura l'ABI, stanno facendo tutto il possibile, ma le procedure andrebbero semplificate. Servirà ancora qualche giorno per definire i passaggi con SACE e Fondo PMI. Si prevedono tempi rapidi per i prestiti alle microimprese fino a 25.000 euro, mentre per gli altri con garanzia statale tra il 70 e il 90% ci vorranno settimane. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo al quadro internazionale. I casi di coronavirus nel mondo hanno superato i 2 milioni secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, di cui circa la metà in Europa. Superano quota 2 milioni i casi di coronavirus a livello mondiale, quasi 129.000 invece i decessi. La metà dei contagi, oltre 1 milione, è concentrata in Europa, dove il rallentamento dell'epidemia sta comunque spingendo diversi governi a rimodulare le misure di contenimento. La Danimarca oggi è stato il primo paese del vecchio continente a riaprire asili nido, materne e scuole elementari, ma con una distanza di 2 metri fra i banchi. In Austria, dove la fase 2 è iniziata martedì con la riapertura dei negozi più piccoli, da maggio sarà anche possibile tornare a fare sport all'aperto. La Germania ha prorogato fino al 3 maggio le misure di distanziamento sociale, ma da lunedì riaprirà i negozi fino a 800 metri quadrati e a partire da maggio probabilmente anche le scuole. Ancora alle prese con l'emergenza, la Spagna ha invece deciso che a fine anno gli studenti di elementari, medie e superiori saranno tutti promossi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Negli Stati Uniti le vendite al dettaglio a marzo, secondo i dati del Dipartimento del Commercio, hanno registrato il maggior calo di sempre, da quando i dati vengono registrati mensilmente, dal 1992. A causa della chiusura dei negozi e del 90% degli americani che sono chiusi in casa per il coronavirus. New York, che è il centro della pandemia, è anche la più colpita dalla frenata dell'economia. Oggi è stato reso noto l'indice manifatturiero dello stato di New York, che nell'ultimo mese ha perso il 78,2%, il dato peggiore di sempre per l'indice. Due dati che hanno mandato in tilt i mercati finanziari. Intanto il presidente Donald Trump ha deciso di cancellare gli stanziamenti annuali degli Stati Uniti all'OMS. Lo aveva promesso e lo ha fatto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è accusata dal presidente americano di aver coperto la crisi in Cina. Bill Gates, il fondatore di Microsoft e ora con la moglie presidente dell'omonima fondazione benefica, ha definito la scelta di Trump, che arriva nel pieno di una pandemia globale, molto pericolosa. Critiche al dietro fronte americano sono arrivate anche dal segretario dell'ONU Antonio Guterres. Non è il momento di ridurre i fondi all'OMS, ma è il momento di lavorare tutti insieme nella battaglia contro il coronavirus. Riccardo Barlam, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi l'importanza anche di guardare all'Africa, di aiutare. Il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha detto: nessuna regione può vincere da sola la battaglia contro il Covid-19. Se il virus non viene battuto in Africa, tornerà a tormentarci tutti. Possiamo vincere questa battaglia, ma dobbiamo agire ora tutti insieme al G7, al G20 e ai partner africani per mettere fine alla pandemia ovunque. Così ha scritto su Twitter il Presidente del Consiglio europeo, allegando un intervento firmato tra gli altri dal Presidente del Consiglio Conte, dalla Cancelliera Angela Merkel, dal Presidente francese Emmanuel Macron, pubblicato ieri dal Financial Times. Quindi si prevede un pacchetto di aiuti per l'Africa. Ora, una scoperta scientifica è un po', per fortuna almeno questa, fuori dal coronavirus: topi ciechi hanno riacquistato la vista dopo l'impianto nella retina di cellule della pelle riprogrammate con una nuova tecnica lampo, che in pochi giorni le ha trasformate in fotorecettori senza passare per lo stadio intermedio di cellule staminali. Il risultato è pubblicato su Nature dal National Eye Institute, partito dal National Institute of Earth americani, e promette di accelerare lo sviluppo di nuove terapie cellulari, ad esempio per le malattie della retina come le degenerazioni maculari. E poi una buona notizia, questa che dà speranza. Pensate, una donna, dopo essere sopravvissuta da bambina all'epidemia di influenza spagnola che colpì l'Europa un secolo fa, una 106enne britannica ha sconfitto anche Covid-19. Si chiama Connie Titchen, classe 1913, ed è diventata la paziente guarita dal coronavirus più longeva del Regno Unito. Tra i suoi segreti di lunga vita, ha detto ai suoi familiari alla stampa del Regno, ci sono le attività fisiche come il ballo, la bicicletta e perfino il golf. Naturalmente cucina sempre il proprio cibo, ma non disdegna qualche volta di farsi accompagnare al fast food, dove mangia hamburger e patatine fritte. Per chiudere lo sport, c'è stato il sì da parte dell'Aula della Camera al decreto legge contenente le misure per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 e alle finali ATP di Torino di tennis. I voti a favore sono stati 408, 2 contrari, 2 gli astenuti. Ora il testo passa al Senato. E poi per il ciclismo rimodula il suo calendario internazionale con la conferma del Tour de France da fine agosto a inizio settembre. La Federazione Internazionale fissa anche i paletti per il Giro d'Italia. Si correrà dopo i mondiali previsti dal 20 al 27 settembre ad Aigle-Martigny in Svizzera e prima della Vuelta in Spagna. È l'esito della riunione in teleconferenza tra UCI organizzatori, RCS e corridori. Bene, con lo sport direi di chiudere questa prima parte di Effetto Notte, in modo che tra pochissimo cominciamo ad approfondire alcuni temi in primo piano con gli ospiti. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Cominciamo allora ad affrontare alcuni dei temi che sono in primo piano con gli ospiti, a cominciare tra pochissimo dalla vice ministra Ascani. Intanto leggo volentieri fra i tanti messaggi, ringrazio sempre le ascoltatrici e gli ascoltatori per i loro messaggi. Gabriella che dice: oggi avevo deciso di non ascoltare nessun TG, info, aggiornamento, dati infettati, guariti, decido, ma stasera sono qua da lei, Roberta, dice Gabriella, al riassunto della giornata. Grazie Gabriella, sono molto contenta, ti abbraccio e... Lo sapete, Effetto Notte è la trasmissione antivirus, perché più l'ascoltate, più vi informate a fine giornata e più riuscite ad evitarlo. E spero anche antiansia, in questo mio tentativo di raccontarvi appunto la giornata, le cose principali dell'Italia e dall'estero con meno toni ansiogeni possibili, anche perché non è che aiutano, diciamo, a fare le cose meglio. Allora, sapete che da giorni in Italia si sta parlando della cosiddetta fase 2, a proposito dell'auspicata progressiva riapertura delle attività produttive in primis, ma anche poi di un tentativo così di ritorno alla normalità anche per le nostre vite di singoli cittadini, di comunità sociale. Inevitabile quindi parlare della scuola. All'estero ci sono vari, anche in Unione Europea, diversi stati che si stanno comportando ognuno secondo, diciamo, i propri parametri e le proprie esigenze. Per esempio la Danimarca è il primo paese europeo che ha riaperto le scuole elementari e gli asili nido, che erano rimasti chiusi per un mese, anche lì naturalmente per il coronavirus. Con che cosa fa la Danimarca? Lezioni all'aria aperta, distanza di sicurezza di 2 metri, un solo alunno per banco e poi alla pausa tutti ordinatamente a lavarsi le mani. La Germania ha fatto sapere che riaprirà gradualmente le scuole dal 4 maggio, prima le superiori e poi anche l'ultima classe delle elementari. La Francia si sta preparando a sua volta per l'11 maggio, pur tra mille cautele e anche tra diverse polemiche interne. Il Lussemburgo vuole riaprire gli asili e le scuole il 4 maggio, la Grecia ha segnato sul calendario il 10 del mese prossimo, quindi di maggio, l'Estonia il 15. Decisioni quindi che continuano ad alimentare anche in Italia un po' il dibattito su quando, se è il caso di riaprire, se è il caso di arrivare sino a settembre. Oggi c'è stato un'importante riunione di maggioranza per capire come gestire la fine di questo anno scolastico e l'inizio del prossimo, ed era in collegamento anche la vice ministra Anna Ascani, che intanto saluto. Buonasera vice ministra. Buonasera a voi. Sono molto felice di sentirla, anche perché lei era risultata positiva al coronavirus, si è fatta il suo periodo purtroppo di malattia, ne è uscita e guarita. Sta bene adesso? Sì, sono guarita, sto bene, sono tornata. La sento male però in questo momento, anche se sta bene. Vediamo. Dicevo, sono, ecco. Forse prende male. Sì. Dicevo, sono tornata al lavoro ieri pomeriggio, quindi sì, sono pienamente guarita. Pienamente guarita, meno male, adesso la sento pienamente, anche pienamente bene. Senta, vice ministra Ascani, quindi è stata un'esperienza pesante, come l'ha vissuta questa? Sì, quello che posso dire è che anche chi è più giovane, io ho 32 anni, questo virus, insomma, colpisce forte, abbassi, i sintomi sono pesanti, poi io per fortuna non sono dovuta andare in ospedale, quindi insomma nel mio piccolo sono stata fortunata, però certamente è un'esperienza molto molto provante. E non si augura a nessuno, chiaramente. No, suggerirei insomma a tutti di avere la massima prudenza, di prestare attenzione alle indicazioni, alle regole, perché è bene evitarlo. Bene, felici di risentirla così subito, vivace al lavoro, vice ministra Ascani. Allora, dicevo appunto, elencavo alcuni paesi europei che hanno intenzione di riaprire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, le scuole. Invece mi pare di aver capito ormai da diversi giorni che la vostra linea di Ministero dell'Istruzione è quella di arrivare a questo punto direttamente a settembre, no, vice ministra Ascani? Allora, non c'è una decisione presa, perché naturalmente noi procediamo passo passo esaminando l'andamento dell'epidemia. Il nostro paese è stato più colpito di altri paesi, lo sappiamo, per numero di contagi e di vittime, quindi dobbiamo stare attenti, e meno male che la chiusura delle scuole è intervenuta presto, in modo da consentirci di azzerare il rischio contagio, che purtroppo nelle scuole si sarebbe moltiplicato per gli spazi, per la difficoltà nel distanziamento sociale, per il fatto che i bambini poi spesso frequentano i nonni, e questo sarebbe stato un vero e proprio disastro. Noi procediamo ascoltando gli scienziati, per il momento sia Locatelli che gli altri membri del Comitato Tecnico Scientifico ci dicono che la prospettiva di una riapertura è molto molto complicata. La verità è che in Italia è previsto che la scuola finisca la prima settimana di giugno, quindi diciamo che comunque sarebbe un periodo relativamente breve per la riapertura. Quello che stiamo facendo è ragionare della eventuale possibilità di una riapertura qualora gli scienziati ci diano il nulla osta, ma il nostro lavoro è soprattutto concentrato su come riaprire a settembre per fare in modo che il diritto allo studio sia garantito a tutti gli studenti, ma gli sia garantita anche la sicurezza e la salute, perché con questo virus avremo a che fare fino a quando non troveremo un vaccino, quindi sicuramente delle modalità nuove vanno trovate, e per questo abbiamo messo al lavoro, stiamo mettendo al lavoro gli esperti che, come ha annunciato la Ministra, si insedierà già nelle prossime ore, e penso sarà molto utile ascoltare anche la loro opinione sulle modalità della didattica nel mondo dopo il virus. Quindi, Vice Ministra Scani, anche se non è stata presa ancora una decisione ufficiale, le diceva alla fine, se la scuola è previsto che chiuda comunque anche nell'anno scolastico normale all'inizio di giugno, tanto varrebbe, probabilmente c'è solo il mese di maggio di mezzo, quindi forse per non creare problemi e rischi. Però state lavorando, diceva, questa task force al lavoro per capire a settembre come riaprire, anche perché, come diceva, non è che il virus è sparito o sparirà se non c'è il vaccino, e quindi bisognerà capire, sarà complesso, immagino, riorganizzare l'apertura della scuola a settembre. È difficile, sì? Però da questo passa anche la vita del paese, perché certamente la riapertura della scuola ha un impatto culturale, ha un impatto sociale, ha un impatto sul diritto costituzionale che è il diritto all'istruzione, ma anche un impatto importante sul mondo del lavoro. Noi non possiamo pensare che le aziende e gli uffici riprendano il loro corso normale se non riapriamo anche le scuole, perché certamente questo per le famiglie diventerebbe un peso insostenibile. Quindi, diciamo, il sistema paese ha bisogno di una scuola che funzioni per tante ragioni. Per me, naturalmente, che sono al Ministero dell'Istruzione, la prima e la principale è garantire il diritto all'istruzione. Però di certo sul sistema paese pesa anche il ruolo della scuola in generale. Quindi quello che è venuto a mancare in questi giorni sicuramente è anche questo. E non si può pensare di riavviare il paese se non si riavvia contestualmente anche la scuola. Certo, quindi diceva, da un punto di vista dell'esigenza dei ragazzi per la formazione e educazione di essere presenti a scuola e non soltanto di continuare con la didattica a distanza, e poi dice ovviamente è una questione di organizzazione del sistema Italia, della società, che se i ragazzi stanno a casa e i genitori vanno a lavoro ritorniamo insomma con molte complicazioni. Senta, giusto questa domanda di un ascoltatore o ascoltatrice, anche se è già stata fatta tante volte e credo sia stata esclusa, dice: ma la scuola non può recuperare a giugno e luglio? Guardi, io penso che anche per questi ragazzi, nel momento in cui noi finalmente sbloccheremo questo lockdown, ci sarà bisogno di un periodo di normalizzazione. Noi abbiamo previsto corsi di recupero che partiranno dal 1° di settembre e dobbiamo essere in condizione di far recuperare a tutti nel corso del prossimo anno scolastico quello che hanno perso, perché giustamente questo recupero deve avvenire. Allora, immaginarsi soluzioni tampone durante l'estate, secondo me, fa più danno che bene a questi ragazzi. Invece tornare alla normalità dovrebbe poter significare magari tornare a un'estate serena, normale, di rapporti sociali finalmente un pochino più assidui, e poi, quando sarà il momento, tornare a scuola e recuperare il tempo perduto. Tra l'altro, per chiudere, Vice Ministra Scani, mi sembra che la didattica a distanza sia andata piuttosto bene, lo dice anche il monitoraggio dell'osservatorio Scuola a Distanza, elaborato dal portale Scuolanet, secondo il quale il bilancio è di tutto rispetto: ormai più di 9 ragazzi su 10, dopo dei primi momenti così, diciamo, di riorganizzazione, di qualcuno che è rimasto un po' indietro, dice 9 ragazzi su 10 alle superiori sono stati raggiunti dalla scuola online, qualcosa meno alle medie, comunque oltre l'80%, quindi tutto sommato è andata bene in un modo che sarebbe stato impensabile solo qualche mese fa, perché la scuola non era pronta a un'emergenza di questo tipo, nessuno era pronto, quindi non era pronta neanche la scuola. Però i docenti, gli studenti, i dirigenti hanno reagito in un modo eccezionale, quindi si sono subito messi in moto per mantenere quella relazione che è alla base di un sistema educativo, cioè la relazione tra studente e insegnante e tra studenti e studente. E questo è il grande successo della didattica a distanza. Dopodiché, io l'ho detto più volte, bene l'entusiasmo in emergenza, ma la didattica a distanza non può sostituire la presenza. C'è un tema di vicinanza, di relazione, di contatto umano, di empatia, che incide moltissimo sulla crescita, sullo sviluppo e anche sulla formazione intellettuale dei ragazzi. E quindi bisogna il prima possibile, il meglio possibile, in piena sicurezza, ma tornare alla scuola in presenza. Beh. Bene, allora bentornata, grazie Vice Ministra Nascani, grazie, buon lavoro. Ci aggiorniamo allora quando avrete un po' le idee della task force più chiare su settembre, d'accordo? Bene, benissimo. Grazie, buon lavoro. Mille, buon lavoro. Grazie mille. Bene, allora adesso ci prendiamo una piccola pausa di riflessione. Come sempre a questo punto vedo i vostri, tanti vostri messaggi. Dice questo ascoltatore, cosa dice Giacomo? Scusate, per gran parte delle aziende ieri hanno aperto in deroga, mentre artigiani e piccole aziende devono stare tassativamente chiuse. Giacomo, non lo so perché adesso vedo per esempio che Buffagni, sottosegretario del Movimento 5 Stelle, che cosa dice? Agenzia di pochi istanti fa, la richiesta della Lombardia sulle riaperture del 4 maggio è un errore. Sapete che una delle notizie principali di oggi, ve lo dicevo all'inizio, è proprio questa, che la Lombardia, da regione più colpita, è quella tra le misure più stringenti, più restrittive per i cittadini, quindi anche per le attività produttive, per le libertà individuali, ha chiesto oggi al governo di poter cominciare a riaprire gradualmente, con misure di sicurezza eccetera, le attività produttive dal 4 maggio. Ne parleremo tra pochi istanti. Vedevo anche qualcuno che faceva delle domande adesso sulla scuola, sulle graduatorie. Insomma, adesso stavamo parlando di un altro tema, ma li vedo solo adesso questi messaggi. Tra l'altro lasciamo il tempo alla Vice Ministra Scani di riprendersi, visto che è tornata ieri al lavoro dopo aver passato anche lei, insomma, una brutta esperienza, anche se a casa, col Covid-19. Ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte da casa, siete al posto giusto, nel momento giusto, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante. Sono qui del resto per voi ogni sera, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22. Roberta Giordano, naturalmente, sempre con voi. Allora, abbiamo appena parlato con la Vice Ministra Scani della scuola, della possibile ripresa. Ci diceva che, insomma, anche se non c'è una ufficializzazione, sarà difficile che possa riaprirsi la scuola in Italia a maggio, prima della chiusura naturale che sarebbe a giugno, anche se parlavamo di vari stati in Europa che hanno intenzione di aprire, la Danimarca l'ha già fatto, nelle prime settimane di maggio. Però per quanto riguarda invece le altre attività nel nostro paese, sapete che appunto da tempo si parla di questa fase 2, di questo auspicato progressiva riapertura, un tentativo di ritorno alla normalità, perché di normalità, bah, chissà quando veramente si potrà parlare. E notizia che ha fatto irruzione in questo dibattito sulla fase 2 oggi è quella appunto della Lombardia, che ha chiesto così inaspettatamente di poter ripartire progressivamente con il 4 maggio, nel rispetto, ha detto Fontana, il presidente della regione Lombardia, delle 4D, cioè distanza di un metro tra le persone, obbligo di mascherina per tutti, obbligo di smart working per le attività, scusate, quattro condizioni, obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere e test sierologici che inizieranno dal 21 aprile in Lombardia, secondo quanto ha dichiarato il presidente della regione Lombardia. Però poco fa vi leggevo questo aggiornamento di pochi istanti fa del sottosegretario Movimento 5 Stelle Buffagni, che ha detto, questa è la dichiarazione, la richiesta della Lombardia di avere il via libera alle attività produttive a partire dal 4 maggio è un errore, ha detto Buffagni. Da sempre Fontana ha sostenuto una linea rigorosa e fortemente restrittiva e oggi sorprendentemente decide, non si comprende sulla base di quali dati, dice Buffagni, di aprire, andare in ordine sparso, rischia di alimentare confusione nei cittadini e nelle imprese che invece esigono chiarezza. E su questo coinvolgo la nostra Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Roberta, buonasera, un saluto agli ascoltatori. Quindi è arrivata questa effettivamente inattesa decisione, richiesta almeno per il momento, della Lombardia, Maria Luisa? Sì, in serata è filtrata anche la sorpresa di Palazzo Chigi, oltre appunto alla dichiarazione di Buffagni per questa richiesta della Lombardia, che preme sul pedale dell'acceleratore, vuole ripartire appunto dal 4 maggio. Da Palazzo Chigi viene fatta filtrare appunto la sorpresa e la sottolineatura del fatto che ci vuole un piano articolato, un piano unico programmato, altrimenti, viene sottolineato, si rischia che il contagio possa riprendere. Il dettaglio del piano Lombardia, il piano delle 4D, lo hai anticipato tu Roberta, sono le quattro condizioni della ripresa, appunto distanza, dispositivi di protezione, quindi le mascherine, l'obbligo di mascherine per tutti, la digitalizzazione, quindi l'obbligo di smart working ove possibile, e la diagnosi, quindi i test sierologici a partire dal 21 aprile, ha detto la Lombardia, ma anche su questo poi specifichiamo la posizione del governo. Sì. Il tutto, ha spiegato ancora la regione, accompagnata da un piano per riaprire con orari e giorni scaglionati uffici, aziende e successivamente anche poi scuole e università. Su questo aspetto in particolare c'è invece una visione unica sugli orari differenziati di ingresso ed uscita per uffici, aziende e negozi, e la linea su cui si sta muovendo come primo tema anche il governo con la task force guidata da Vittorio Colao, che tornerà a riunirsi domani. Il nodo centrale da sciogliere innanzitutto è la riorganizzazione dei trasporti pubblici, sui quali va evidentemente assolutamente evitato il sovraffollamento. Certo. Tra le soluzioni già al vaglio di ministeri ed enti locali c'è il potenziamento delle corse e di conseguenza anche del personale che sarà utilizzato, questo è stato già fatto, filtrare anche per evitare la salita sui mezzi una volta raggiunta la capienza massima consentita, che sarà della metà dei soli posti a sedere, quindi inizialmente ci sarà personale addetto che impedirà ad altre persone di salire. Successivamente è stato anticipato ci sarà anche un dispositivo di tracciamento, quindi un'app o qualcosa di simile che impedirà, visualizzerà appunto la capienza massima raggiunta. Altro tema, anticipavo prima, quello dei test sierologici. Roberta, il comitato tecnico scientifico ha validato le caratteristiche che dovranno avere questi test di immunità su scala nazionale, quindi un test unico che consentirà poi i raffronti fra i diversi luoghi del paese dove vengono effettuati. Innanzitutto è stato detto sarà un test da fare con prelievo del sangue, non con la puntura sul dito, perché meno affidabile. Esatto, sono stati considerati meno affidabili, questi sono in realtà già in esecuzione un po' a macchia di leopardo in vari punti d'Italia. L'obiettivo appunto è avere un test unico nazionale, anche se appunto le regioni si sono mosse su alcune categorie, in particolare dai sanitari alle forze dell'ordine. Nella fase 2 è stato anticipato, oltre ai test, sarà necessaria anche l'esecuzione periodica dei tamponi ai lavoratori, quindi per monitorare il rischio contagio in tutti gli ambienti lavorativi. Quindi insomma questa fase 2 molto articolata, ancora, molto complessa, sì. Sì, e molte incognite che sono ancora da sciogliere. Certo. Per il momento si stanno comunque valutando, al di là appunto del 4 maggio, riaperture anticipate, forse già dalla prossima settimana, solo di alcune filiere, dalla moda all'automotive, aggiornando quel famoso elenco di codici Ateco delle attività consentite, e su questo si stanno già muovendo gli accordi sulla sicurezza sul lavoro, accordi territoriali o di settore, appunto per auto-organizzarsi, farsi trovare pronti in attesa poi della libera, esatto, a riaprire i cancelli. Grazie Maria Luisa Pezzali. A ciao voi, Maria Luisa. Buona serata. Ciao a te. E saluto a questo punto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, la nostra commentatrice politica. Cara Barbara. Buonasera a tutti. Quindi regioni un po' in ordine sparso, Buffagni ancora, che ha molto criticato, leggevo prima appunto sottosegretario del Movimento 5 Stelle, la richiesta della Lombardia, che dice senza motivo, non so su quali dati, e poi dice non si può in nessun modo pensare di strumentalizzare politicamente un tema come quello così delicato della riapertura del paese. Parliamo, dice, di una regione, la mia, la Lombardia, che ha pagato uno dei prezzi più alti al mondo per numeri di vittime, sofferenze e sacrifici. Insomma, Buffagni in qualche modo intuire dal suo punto di vista che ci sia una strumentalizzazione, cioè che la Lombardia chieda a questo punto di riaprire il 4 maggio così inaspettatamente, perché questo porterebbe consenso, Barbara, da un punto di vista politico? Io credo che in questo momento ci sia, è indubbio che la posizione di Fontana è abbastanza oscillante, no? Nell'arco di queste settimane. Da essere però molto così severo, rigoroso sulle misure restrittive. Sì, diciamo. Però mi viene anche da dire che è inevitabile che sia così, nel senso che è evidente che in questo momento c'è un timore, più che fondato timore, che rimanere ancora fermi possa pregiudicare in modo irreversibile, lo sottolineo, il futuro della Lombardia e quindi dell'Italia, perché cioè, il futuro della Lombardia è il futuro dell'Italia, non possiamo prescindere dal nostro motore, e che è quello lombardo. E stiamo vedendo, basta leggere i giornali, che tutte le grandi i grandi paesi europei stanno rimettendo in moto le macchine, alcuni non le hanno neanche mai spente, mai del tutto, in particolare la Germania. Per esempio, ecco, io faccio sempre degli esempi molto banali, però se tutta una serie di componenti, dall'automotive ad altro, che anche al tessile, che oggi vengono acquistate in Italia, ricordiamoci sempre che noi siamo un paese che vive, campa e si arricchisce grazie alle esportazioni, e che i nostri due principali paesi esportatori a livello mondiale sono la Germania e la Francia, cioè due paesi europei, quindi quando diciamo noi ce ne preghiamo, ricordiamocelo sempre bene, noi esportiamo principalmente in Germania e Francia. Quindi se la Germania soprattutto dovesse avere necessità di prodotti e prenderli altrove, non è detto che poi torna dai vecchi clienti. Già nei giorni scorsi c'erano industriali tedeschi, no, che chiedevano all'Italia di riaprire alcuni settori, sì, proprio per la componentistica e altre cose. Quindi è chiaro, sono delle filiere, diciamo, a livello internazionale. Però è un certo, problema. L'importante però, Barbara, è che tutte le misure di sicurezza, perché se si dovesse ricominciare col lockdown, con le chiusure, con lo sì, stare in casa, eccetera. Io penso sempre, Roberta, che quello che bisogna imparare anche guardando gli altri, come gli altri hanno imparato guardando noi, no? Con il lockdown, ricordiamoci chi diceva, l'ultimi gli svedesi che hanno messo in piedi il lockdown dopo che hanno detto che loro invece erano tranquillamente per la strada senza problemi. Poi si sono accorti che era il caso. Un certo numero di morti, certo, hanno chiuso. Sono tornati indietro. Quindi prendere spunti reciprocamente. Barbara, no, però. Ma scusa, volevo semplicemente dire questo. Se altrove stanno riaprendo è perché in molti paesi che riaprono ci sono le condizioni per riaprire. Allora, le condizioni in Italia le devono garantire le regioni ed il governo. Cioè, inutile che ce la prendiamo con le singole imprese, perché se io ho bisogno di mascherine, ho bisogno di poter fare tutta una serie di di utilizzare tutta una serie di prodotti per garantire la sicurezza dei miei dipendenti, devo quantomeno trovarle. Non dico che me le paga lo Stato, che sarebbe la cosa più giusta e corretta da fare, perché visto che le imprese già sono sottoposte a degli oneri incredibili e non stanno guadagnando niente, lo Stato dovrebbe metterci quantomeno il materiale per garantire la sicurezza dei lavoratori. Certo. Però non si trovano neanche. Oggi abbiamo saputo da Arcuri, dal commissario Arcuri, che straordinario, le mascherine sono adesso addirittura, ne stiamo producendo di più. Speriamo che sia così, basta vederle però. Perché anche il Piemonte ha detto che appena saranno disponibili anche il Piemonte le renderà obbligatorie. Barbara, abbiamo un minuto e 27 secondi per parlare del MES, che miracolosamente il Fondo Salva Stati, meccanismo europeo di stabilità, che è stato modificato, diciamo, per questa situazione particolare dall'Eurogruppo, però sappiamo che Conte nella trattativa con l'Unione Europea ha continuato a dire nei giorni scorsi: noi non firmeremo mai per questo tipo di strumento per superare da un punto di vista economico finanziario in Unione Europea questa emergenza economica, vogliamo gli eurobond. Però è stato trovato un compromesso soprattutto tra Francia e Germania, sappiamo, di un MES modificato, quindi senza delle condizioni particolari, un po' da cappio, è stato ammorbidito, ma Conte ha continuato a dire: no, non ne voglio sapere del MES. E questa cosa, fra l'altro, ha creato come delle alleanze alternative, almeno temporanee, no? Con due vecchi avversari come Berlusconi e Prodi, che in questi giorni, nell'arco di due giorni, tutti e due hanno detto no, dobbiamo sfruttarlo questo MES, in questo momento ci servono quei soldi, dobbiamo utilizzarli. Però all'interno della maggioranza che cosa succede? Che bisticciano PD e Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle si riavvicina alla Lega sul fatto di non volerne sapere niente del MES. Però poco fa Conte su Facebook ha scritto dei concetti lunghissimi che non sto qui a leggere, dicendo che insomma sta cercando di mediare e di vedere magari di dare una decisione definitiva sul MES solo quando la trattativa Unione Europea sarà arrivata verso la fine. Ho dovuto sintetizzare perché abbiamo pochissimo tempo, Barbara. Sì, questa, allora, l'ultima cosa che hai detto, cioè riportando le parole di Conte, mi sembra una cosa più sensata, perché l'Eurogruppo, Roberta, non è che ha approvato, sarà il Consiglio Europeo, cioè i capi di Stato e di Governo, che dovranno decidere che fare, perché poi come dire, bisognerà vedere quali sono queste condizioni leggere o non condizioni sulla utilizzazione del MES, perché per cosa stanno dicendo Prodi e Berlusconi, che sottolineo in non sintesi a caso sono due ex presidenti del Consiglio. Sì. Altra sottolineatura che faccio, guardiamo lo spread, quello che sta facendo in questi giorni, nonostante l'intervento massiccio della Banca Centrale Europeo, quindi si stanno creando delle condizioni di warning, no? Ecco, abbiamo un problema, ci sono dei problemi seri, perché noi dobbiamo andare, lo ripeto sempre Roberta, sui mercati per finanziare e per pagare stipendi e pensioni, perché sennò non abbiamo i soldi, quindi ce li dobbiamo chiedere in prestito. Però allora, Franceschini, noi potremmo prendere questi 36 miliardi per, secondo quello che ci hanno raccontato fino adesso, per utilizzarli in spese per la sanità. Cosa significa? Fare nuovi ospedali, ma anche per esempio acquistare beni mascherine, materiali per le imprese, proprio per quello che dicevo prima. Sì. Se effettivamente fosse senza nessun tipo di condizionamento, cioè non è che dopo un anno che noi li usiamo ti vengono a dire sì va bene, d'accordo, adesso siccome l'emergenza è finita, la pandemia non c'è più, allora a questo punto però tu devi tenere su tutta una serie di riforme eccetera eccetera. Ecco, cioè, l'importante è che tutte queste condizionalità poi non ci siano, come per il momento avrebbe detto l'Eurogruppo. Però vediamo, cosa succede il 23 aprile. Per adesso la cosa sì, secondo me criticabile, censurabile da parte di tutti, sottolineo di tutti, è l'utilizzare il MES, il pro o no al MES come strumentalizzazione politica per darsi addosso. Chiaro. In modo strumentale, così come anche su chiusure e aperture, se si pensasse più all'interesse del paese e degli non si litigherebbe anche su questo. Barbara Fiammeri, sei un torrente in piena stasera, ma ci dobbiamo assolutamente lasciare, se non ho tempo per gli altri ospiti. Grazie Barbara Fiammeri, a ben grazie presto. A voi. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, abbiamo parlato allora di scuola, del percorso scolastico, di quello che succederà adesso, diciamo nell'imminente futuro e poi a settembre con la vice ministra dell'istruzione Ascani. Abbiamo parlato della decisione, la richiesta da parte della Lombardia inaspettata di poter riaprire le attività produttive progressivamente dal 4 maggio e poi anche alcuni aspetti politici di scontro di questo momento. Allora, quindi fase 2 che già dicevamo avviene in diversi paesi europei, prima in testa la Germania, anche in Italia si sta lavorando a questa benedetta fase 2 con, abbiamo detto, ipotesi, orari differenziati di ingresso ed uscita per uffici pubblici, industrie, aziende, una riorganizzazione dei trasporti pubblici. In vista di tutto ciò, per rendere più efficaci le misure di contenimento, il Viminale, il Ministero dell'Interno, ha inviato alle prefetture una circolare per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e su questo coinvolgo Girolamo Laquaniti, che ormai conoscete benissimo, portavoce dell'Associazione Nazionale dei Funzionari di Polizia. Bentornato Laquaniti, buonasera. Ben trovata dottoressa Giordano, buonasera a lei, buonasera ai radioascoltatori. Quindi i prefetti potranno chiedere la collaborazione della ASL e avvalersi di ispettori del lavoro per controllare l'osservanza delle regole, dottor Laquaniti. Sì, non solo, anche della Guardia di Finanza. Si tratta di far sì che questa possibilità, che speriamo si possa realizzare quanto prima, di riprendere le attività produttive avvenga rispettando le regole. Purtroppo ci siamo accorti che spesso nel momento in cui si fa una concessione tra virgolette per poter fare qualche attività in più, improvvisamente colti forse da troppa euforia, non si sta attenti a quelle che sono delle disposizioni di legge, il fatto di non solo mantenere le distanze ma anche di igienizzare i luoghi dove lavoriamo, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Per far capire che queste non sono delle raccomandazioni ma sono degli obblighi di legge che, se disattesi, possono portare alla chiusura temporanea delle attività o degli esercizi commerciali, secondo me molto giustamente il prefetto Piantedosi ha firmato questa circolare, e che ci vedrà impegnati tutti quanti a diversi livelli per far sì che le attività possano riprendere rispettando le regole, quindi sicuramente anche investendo per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche dal punto di vista dei possibili contagi. Giustamente, poi anche per quanto riguarda i negozi al di là delle aziende, dove giustamente ci saranno controlli necessari, a tappeto bisogna rispettare la distanza, come ricordava lei, dottor Laquaniti, ingressi dilazionati, non sostare nei negozi più tempo necessario di quello che serve, insomma, per comprare le cose che servono, quindi non dimenticando per l'appunto tutte le misure di contenimento che sono state fin qui valide, no, dottor Laquaniti? Assolutamente, questo diciamo che può appartenere anche all'esperienza di molti di noi. Non sempre nei supermercati troviamo quella che un tempo era l'educazione di mantenere le distanze, che adesso è un obbligo di legge. Spesso, purtroppo, anche come Polizia di Stato siamo tenuti e siamo dovuti intervenire per situazioni di conflittualità, di contrasto. Abbiamo moltissimi commessi che ci chiedono aiuto per clienti non rispettosi delle regole. Poi, se mi permette una parentesi, paradossalmente peggio gli anziani dei più giovani. A volte sono più agguerriti. È un dato sociologico, forse per loro è più difficile abbandonare certe abitudini. Però ripeto, noi potremmo migliorare nel momento in cui saremo in grado di poter dire che con delle regole di distanza, di igienizzazione, di attenzione nei rapporti interpersonali, siamo un popolo sufficientemente maturo, responsabile e consapevole per dare ancora più permessi. I prefetti hanno il potere di consentire alle aziende che non rientrano nel DPCM di svolgere la propria attività con determinate caratteristiche e con determinate attenzioni, adesso bisogna controllare che però tutti lo facciano e tutti rispettino le regole. Benissimo, grazie ancora dottor Girolamo Laquaniti, buon lavoro. Grazie, buona serata a lei. E torniamo anche sulle inchieste che cercano di far luce in varie zone d'Italia, in particolare in Lombardia, su quelle che per un po' di tempo sono state proprio delle stragi silenziose, ma poi sono purtroppo man mano emerse in tutta la loro profonda drammaticità. Le tante tante morti da Covid-19 nelle case di riposo, massacri addirittura li ha definiti oggi il rappresentante italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra. Ne voglio parlare con la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, eccoci. L'inchiesta principale, lo sappiamo, è quella che riguarda, ci sono varie in tutta Italia di inchieste in questo senso, la maggiore è quella che riguarda il Pio Albergo Trivulzio, che è a Milano la maggior struttura geriatrica d'Italia. Oggi addirittura la Guardia di Finanza era nelle sedi della Regione Lombardia, Raffaella. Sì, nella sede della Regione Lombardia con un mandato ben preciso, quello di acquisire tutta la documentazione riguardante i protocolli che dalla Regione sono state mandate a tutte le residenze sanitarie per anziani della Regione, all'interno delle quali il Pio Albergo Trivulzio svolge una funzione particolare, perché c'è un punto soprattutto che viene ora contestato e viene ora messo sotto la lente degli investigatori, ed è quell'ordinanza dell'8 marzo della Regione Lombardia con cui si chiedeva alle residenze per anziani di ospitare dei pazienti che venivano dimessi dagli ospedali che erano già molto in affanno, con delle esigenze ovviamente ben precise, per cui stessero in reparti e in strutture diverse da quelle degli altri ospiti. Però quella stessa ordinanza di cui il Pio Albergo Trivulzio è diventato un po' il centro di smistamento, anche se pare che non abbia ospitato pazienti contagiati Covid, è stata definita da alcuni gestori delle stesse RSA come un fiammifero in un pagliaio, perché potrebbe aver avuto quelle l'effetto deflagrante per il contagio che su pazienti così fragili poi potrebbe aver favorito quantomeno queste morti così numerose. Per questo oggi appunto la Guardia di Finanza, dopo essere stata ieri nel Pio Albergo Trivulzio ma anche in altre strutture dove si sono comunque consumate delle morti e delle, diciamo, dei casi di decessi così numerosi, così tanto più numerosi della normale, è andata appunto nella regione Lombardia per acquisire tutta questa documentazione anche riguardo ai protocolli sulla possibilità di effettuare tamponi all'interno di queste residenze oppure sull'utilizzo anche dei dispositivi sanitari. Perché questo è un altro punto molto importante, perché molti hanno raccontato di non aver potuto effettuare tamponi ai malati o agli ospiti delle RSA, con l'effetto che persone con sintomi a volte sono stati insieme a persone senza sintomi e agli stessi operatori di queste strutture poi venivano o negate o comunque non utilizzate i dispositivi sanitari, per cui finivano loro stessi per essere veicolo di contagio. Raffaella, ricordo che poi ne parlerai di questa inchiesta nel tuo programma Storiacce domenica alle 21. E ricordo anche che Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha detto massima collaborazione con le indagini, però il suo legale ha detto ha diritto di non sopportare attacchi personali. Vedremo insomma nei prossimi giorni come prosegue questa inchiesta, avremo modo di riparlarne. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta, grazie a te. Ciao Raffaella. Siamo alle 22.